uno stimolo a dire, cazzo, lui c'è un Mercedes, ma aspetta un attimino, ma vediamo un attimino, io cosa sono, a 500, beh, ma insomma... Un motivo ci sarà, ma un motivo qua c'è il rispetto nei confronti di comunque fa un certo un altro tipo di lavoro che è meno diciamo così, meno imprenditoriale, perché uno può anche dire vabbè io non voglio avere nessun tipo di problema, e anche io mi sono trovato in quelle condizioni, dico vabbè non voglio avere nessun pensiero dopo, perché molto spesso fare l'imprenditore è logora, l'imprenditore di se stessi soprattutto, perché non smetti mai di lavorare, soprattutto con la testa, perché sarà capitato anche a te, almeno credo, che non riesci a prendere sonno perché alcune cose non stanno andando, perché c'hai alcuni problemi. Chi invece ha un lavoro da dipendente, tutto il tanto di cappello a chi ce l'ha, arrivato a una certa ora si porta a casa solo la stanchezza, ma non il pensiero di che cosa sarà o di che cosa dovrà fare l'indomani, almeno così credo, secondo poi anche del mestiere. Però quando sei imprenditore c'è un lavoro di testa che ti logora dentro e a fine ti logora anche fuori. Questo lo dici tu? Già, è così, dai. Comunque rispetto a un lavoro imprenditoriale, ti ripeto, tanto di cappella chi è dipendente, però è un attimino più, ti dà più tranquillità, sei più tutelato anche dallo Stato. Io avrei voluto soldi le notti che non ho dormito per il lavoro, o perché per una cosa o per l'altra, perché si accumula, perché non ce la fai, perché hai paura di non farcela, ti prende l'ansia, non credere che se tu lavori seriamente anche da operaio, se il lavoro lo fai veramente seriamente, le preoccupazioni ce l'hai anche tu, perché ti medesimi nel lavoro, perlomeno io sono fatto così, sin quando finisco tutto non me ne vado, non guardo nemmeno la mezz'ora, ce la devo fare in più, però voglio sempre finire tutto quanto e vedermi tutto il lavoro fatto. Adesso per dire, io me ne sono andato a casa col fatto che, te lo dico chiaramente, c'erano i cesti da portare, c'erano un po' di cesti lattaliti da portare nei negozi, e la commessa che li ha fatti non mi ha scritto quali erano per un negozio, quali erano per l'altro, quindi io non potevo inventarmi quali aveva fatto per un negozio e per l'altro, non ho potuto fare, e adesso mi tocca venerdì, e venerdì mi toccherà tanto di quel lavoro che tu non ne hai idea, perché oltre alle consegne dei cesti, panettoni e questo e quell'altro, tu non sei non ti immagini nemmeno quello che si fa in un centro commerciale ai livelli dove sono io. Ci sono mille consegne, mille cose, e te ne vai a casa col pensiero che magari se l'avessi fatto per dire giovedì non avresti avuto accumulato tutto per il venerdì, capito? Sono pensieri che magari saranno minimi, saranno quello che saranno, però i pensieri ce li ha anche lì. È però una questione caratteriale, come hai detto tu, perché tu sei fatto così, però ci sono anche le altre persone che se ne possono fregare altamente, cosa che è difficile che avvenga quando uno è imprenditore di se stesso, capito? Quando uno è un libero professionista, perché soprattutto non viene tutelato, non viene assolutamente tutelato, cosa che invece il lavoratore dipendente è. Oh Gianni, adesso ti faccio un puro esempio, poniamo il caso, io adesso parlo di me, no? Io adesso ho 50 euro, questi 50 euro io le devo far andare, un giorno non vanno, tre giorni non vanno, 10 giorni non vanno, incomincio a rimuginare, incomincio a pensare, incomincio a non dormirci la notte, cazzo, ma ci sto rimettendo, non è come tu stasera non hai consegnato un pacco e lo puoi riconsegnare domani. Ma una questione anche di lavoro, capito? Non è un pacco, a parte che sono abbastanza cisti, comunque non è quello, è che si accumula il lavoro e poi tu devi lavorare, cioè non ti dico come, l'imprenditore ha anche una certa calma lavorando, non certo lavora come l'operaio che deve stare sempre correndo da una parte all'altra, ci avrà anche i pensieri, però certo manualmente non lavorerà come mai, come come un operaio, e gli imprenditori lavorano perché ci sono gli operai che li rendono, se no ricordatevi sempre che se non esiste l'operaio l'imprenditore non va avanti. Ma no, scusatemi se mi intrometto, ma realmente non è quello il discorso che stiamo facendo, è che tu non rappresenti, Gianni, il classico lavoratore dipendente, perché sei coscienzioso, sei una di quelle persone che si mette problemi se non fa il proprio lavoro a modo, ma quanti ce ne sono come te, adesso sinceramente? E ce ne sono un bel che se ne fregano, è vero, e sono quelli più ben voluti. No, perché il problema è che tu, per come tiri la carretta, se poi poco a poco cedi leggermente, se ne accorgono subito e dicono come mai non sei più come prima. Mentre invece a chi non fa niente, chi è abituato a non fare niente o lo stretto necessario, quando fa di più gli fanno anche l'applauso. È una questione di coscienza, è una questione di carattere, è una questione di vedere le cose. Io penso che se i soldi me li devo guadagnare, me li devo sudare. C'è gente che se ne frega, più bevuta degli altri, fa risultare che fa una cosa e poi non la fa, dice ho fatto questo e poi magari l'ha fatta altra gente. Capite, lui si meglio di lavagna. Ok, ho già, il tuo discorso non fa una grinza. Se tutti sarebbero coscienziosi, diciamo, del proprio lavoro, forse molte cose andrebbero molto meglio, capito? Ma tu lo sai quante volte io ho fatto viaggi a vuoto, per magari per delle stronzate poi. Lo so, un po' in tutti i campi è così, però diciamo che l'imprenditore ne approfitta anche un bel, perché stiamo lavorando come animali, capito? Ci sono poche persone, il lavoro è un bel, stiamo lavorando molto molto male. Come ho sentito da altre persone lamentarsi, stanno riducendo il personale, finiscono i contratti, non li rinnovano più e rimaniamo quattro gatti che ci dobbiamo fare un mazzo tanto, non dico altro. Lo so, purtroppo si sta arrivando a dei livelli un po' particolari. Lavori male, se ti lamenti magari sei preso d'occhio e alla prossima magari sei tu a rimanere a casa, o per una scusa o per l'altra. Infatti io non mi lamento, io faccio sempre, proprio arrivo a casa che sono stressato, lo vedono anche e lo sentono gli amici che ci sono qua al baracchino, che a volte parlando mi addormento e non me ne accorgo nemmeno della stanchezza che ho. Mi alzo sempre con le ossa, cioè se si può fare una vita del genere, no? Io non mi lamento per il lavoro, ma mi lamento per come siamo organizzati. Ecco. Comunque è un lavoro, anche prima si parlava di lavori umili, è esclusivamente una questione geografica ed esclusivamente una questione temporale. Geografica per il semplice fatto che a seconda di dove sei nato, avere un qualsiasi lavoro, forse anche come diceva Sandro, quello che per assurdo si giudica quello più umile, che è quello di prendere una scopa e ramazzare, se tu vai a dirlo a uno che magari scende sottoterra, come può essere un minatore, ci sta 8 ore, si spacca la schiena, si respira a carbone, secondo me è un lavoro che gli piacerebbe fare, sublime, sicuramente non così umile, anzi. A me mi hanno sempre insegnato a guardare davanti e mai dietro, sempre davanti devo guardare. Mi hanno insegnato che non mi devo accontentare sicuramente, però ogni tanto bisogna anche guardare dietro per vedere come stanno gli altri e non guardare sempre davanti e vedere chi sta meglio di me, assolutamente. Io guardo come sto io e realmente mi chiedo una cosa ogni giorno, ma io sono felice. La risposta qual è? Purtroppo ancora mi rispondo no, per il semplice fatto che per quanto ultimamente stanno cambiando le cose, perché mi sono reso conto che ho riorganizzato quella che è la piramide prioritaria delle cose, perché prima eravamo molto più importanti. tanta cose che erano davvero futili. Poi, a seconda di come vanno le cose nella vita, ti rendi conto che le cose vere, le cose importanti non sono quelle. Crode, già dobbiamo pensare che, per dire, stasera noi abbiamo mangiato, no? Adesso noi siamo qui all'apparato a farci le nostre la nostra chiacchierata, ok? Dopo ce ne andremo a dormire, domani mattina ce ne alziamo. Ognuno di noi prende in mano la giornata e cerca di portarla avanti. Ma secondo voi questo non è tanto? È tutto. Ma è tanto, è tanto, sì, perché c'è gente che non può organizzarsi la giornata perché non c'è i soldi per farlo, non può andare a fare la spesa, non può fare nulla perché non c'è un lavoro. Ho detto che bisogna guardare anche dietro, proprio, non dimenticarlo. Ti sto dicendo, bisogna guardare anche dietro, ti sto dicendo è tutto, perché è tanto quello che ha detto lui, cioè che abbiamo questa possibilità, c'è invece chi, come hai detto tu, non è nella condizione di poterlo fare. Quindi questo vuol dire guardarsi dietro, guardare dietro, che c'è, guardare chi c'è, che c'è gente peggio sicuramente di noi, cioè, ma molta gente peggio di noi. Ti ho detto che è una questione temporale, perché tu guarda come stanno in altre nazioni, guarda in Africa la persona, la prima cosa è quella di mangiare, quando si alza è quella di mangiare, non come noi di andare a divertirsi con gli amici o comunque a fare altro. Allora, nel terzo mondo, noi chiamiamo Africa, quelle zone proprio di terzo mondo, dove non sanno cosa vuol dire un televisore, perché ancora oggi esistono quelle zone lì, dove ci sono questi bambini che per aspettare un pugno di riso bollito devono fare i salti mortali, non sanno cosa vuol dire una bicicletta, un pallone, oppure il pallone se lo fanno di carta oppure di pezza. Secondo voi questo non è guardarsi al dietro? Ma sono paesi ancora primitivi, che non sono evoluti. Comunque io, a quanto vedo, c'è sempre un negretto che telefona alla moglie in Africa e usa il telefonino sia lui che lì. Quindi penso che si stiano evolvendo. Io quando vedo queste cose penso, ma non... magari si stanno evolvendo, si hanno anche i telefonini adesso, vuol dire che si stanno evolvendo. No, non sono quelle zone lì, Gianni, ci sono zone dove diciamo si stanno integrando, stanno cercando di integrarsi, dove ci sono queste comunità, diciamo, di volontariato, di italiani, di inglesi e così via, dove hanno instaurato, diciamo, delle comunità e dove stanno cercando di inserire questa gente, diciamo, a andare avanti, diciamo, con gli anni, a civilizzarsi un attimino di più, a cercare, diciamo, di portarli, di mandarli a scuola, a cercare di crearsi un lavoro fra di loro e così via. Però ci sono anche altri paesi nell'Africa dove ancora sono nudi e crudi. Questo qui è del Senegal, Omar è del Senegal. Ma penso che in Senegal siano molto civili. Infatti quello che mi domandavo, detto, quanto spendi per telefonare a tua moglie? Mi ha detto ogni mezz'ora 5 euro. Sì, ma aspetta, il Senegal al giorno d'oggi, diciamo, è già abbastanza avanzato, il Senegal. Ma se noi andiamo, diciamo, nell'Africa centrale e così via, c'è da mettersi le mani nei capelli. Lo so. Purtroppo sono paesi che sono stati sempre indietro degli altri, sono ancora a livello primitivo, si costruiscono le armi ancora, ho visto pescando certi pescioni io con delle lance, figurati tu, cosa che qua, non si vedono queste cose qua. Sembrava quasi assurdo, circondavano i pesci con le barche, quando, tipo una mattanza così, e poi li... avevano queste frecce fatte da loro di legno e di insicchiai. Beh, ok, no, magari sono, è della gente diciamo che ormai diciamo è abituata a quel genere di vita, che da quel genere diciamo che tu non la sposti, perché se tu per dire dovessi spostare una persona da quel suo genere di vita e la porti da noi o la porti per dire una grossa città, quello lì per dire impazzisce, quello lì diciamo esce fuori di testa perché non è abituato a quel modo di vita. È tutto un modo diverso, fanno gli scambi di merce, la merce non si vende, si scambia ancora, è tutta una cosa, è tipo quello dei Fenici. Beh, lo so, però vedi, purtroppo noi parliamo dell'innovazione, della tecnologia e purtroppo ancora esistono, diciamo, di quelle popolazioni lì. Come quando si vedevano i film di Al Capone, eccetera, eccetera, che si vedevano i telefonini in macchina, sembravano cose assurde, e dopo un bel tempo ci siamo evoluti anche noi, ma in America già esistevano. Lo so, vabbè, comunque. Crobe, ci sei? Veramente sì, vi stavo ascoltando con interesse. Riprendi da Gianni Doppio Rom. Ma una di questi giorni ho una pescata, allora una pescata o una pizzata ci dobbiamo fare? Se la seconda è meglio. Pizzata. E perché la pescata, però dico la verità, io non sono molto in forma in questo periodo. Sono molto giù fisicamente. Non lo so, mi viene questa stanchezza, sposta a testa, poi tutta dolori, so. E non ho voglia molto di prendere freddo, ecco, mi voglio un po' riservare. Ma se fa qualche bella giornata possiamo farlo, non è che ci siamo problemi. Possiamo andare anche di giorno, una domenica mattina, non so, possiamo andare di giorno e faccio la pescata. Ma l'interessante è che ci sia bel tempo, perché in questi giorni c'era vento, non si poteva pescare. A meno che vai a prendere Sara, che ma devi avere un punto coperto che ti possa riparare. Ma per la pizzata si può fare invece o fuori casa? Ne andiamo a Papatango, oppure rimaniamo qua e possiamo andare al bowling. Come vuoi. Io, se andiamo al bowling, io preferisco mangiarmi il piatto composto, con calamari, frutti di mare, eccetera, eccetera. Con 12 o 13 euro, mi pare, c'è il piatto composto, te ne esci dagli occhi, c'è insalate di tutti i tipi, c'è frutta, c'è tutto. Vabbè, poi vediamo, ognuno prende quello che vuole. E niente, e se invece andiamo a mangiare la pizza, io consiglierei di andare a pizzeria San Gavino con Don Torres, che è una delle mie pizzerie preferite, perché, dico la verità, da Massimiliano Ciglia si mangia bene, ma l'ultima volta mi hanno fatto aspettare un'ora e questo non lo sopporto. Pizzeria San Gavino è chiuso per ferie. Ancora? Almeno, sono passato quando, alcuni giorni fa, e mi sembra che era ancora chiuso, adesso non so se riapre adesso per il periodo di Natale, boh. Io sono sceso una sera, tutto quanto convinto a mangiarmi la pizza con la zuppetta. E invece mi è toccato andare da Massimiliano Ciglia, un'ora aspettata, una vergogna, ragazzi. Ho detto, ascolta, ma me la state portando questa pizza o vi pago la roba che ho bevuto e ce ne stiamo andando? Ma ce ne stavamo per andare. Ma era pieno di gente? Era pieno di gente, ma c'è anche il personale, non è che non sono due persone. Sono, mi pare, tre pizzaioli, c'era un sacco di camerieri, a cosa? poi ci hanno messo il sugo e dimenticato io, forse ci hanno proprio dimenticato. Lo so. Caro Gianni, manca il campione. È vero. Stavo dicendo, sì, io proporrei anche una cena da volare. Andiamo da volare? Problemi ci sono. Possiamo andare anche da volare. Tu come state ci sei stato a volare? No, per dirti la verità, se c'è la verità, no. Cosa ti volevo dire? Ma qua a Porotovese raramente che vado, diciamo, a mangiare la cosa. C'è croce stasera c'è un bel corso, ho detto c'è pure una pizza, vabbè, fatti portare la pizza, abbiamo mangiato la pizza, ma diciamo andare così a mangiarla nei locali sono già da bel po' adesso, perché mangiare nei locali bisogna aspettare troppo, almeno a casa per c'è della mangiare tranquillamente. Io perlomeno c'ho la pizzeria via Baldetta, qua vicino a casa, come la ordino me la portano dopo un quarto d'ora, me la portano calda perché ha due fasci. Tito, e tu sei uno di quelli che quando bisogna andare in pizzeria bisogna ordinare per telefono e poi arrivare. Ma io vado anche nei locali a mangiarla e non è che non mi dà fastidio aspettare molto, mi dà fastidio, vabbè, tu mi dai, non capisci, c'è molta gente, sì è vero, ma sono problemi loro quindi. Io penso, a me ci va giù il rami, non è che possa essere la città nulla. Infatti i giorni in cui si mangia peggio la pizza è proprio quello, non sai perché? Perché innanzitutto te la cuociono male, ti arriva in ritardo e ti rompi la banda per questo motivo, perché il forno poi non ce la fa, capito? O meglio, non ce la fanno loro a infornare e a tirare fuori ben poche, perché le fanno mezzo crude. No. Allora, Crote, su quell'altro lì ti devo contraddire. Allora, io mi ricordo che quando il mio campione mi diceva capitava qualche fine settimana, il venerdì o sabato, la domenica, e dicevo, già stasera guarda che scendiamo a mangiare una pizza. No, non ci scendere, perché no, è inutile che veniamo. Ma perché? No, non ci scendere, vieni durante la settimana e così ti mangi la pizza tranquillamente. Infatti, è quello che stai dicendo, nei giorni tipo il sabato, il venerdì è così. Però decidiamo una settimana al limite se farlo o no, non andare. Però devo andare. Sì, pizza numero uno, c'è una cosa, se c'è un alimento che è completo perché ha tutto. Tra l'altro è una di quelle cose, vedi, che a livello imprenditoriale costa poco rispetto a una ristorazione che dove se non riesci a vendere carne e pesce ci devi buttare tutto e spendi una parte di soldi, quella è la pizza, è l'imprenditoria migliore. Tra l'altro ho visto che qua a Sassari stanno aprendo questi nuovi spacci, diciamo piccoli negozietti dove ci sono solo distributori automatici, dove ti fanno anche, ce n'è uno dove ti fanno anche la pizza. Vero? Non mi ricordo dove l'ho visto, adesso non vorrei dire se in via Napoli o da qualche altra parte, proprio ti cuoce alla fine la pizza, cioè fuori esce la pizza cotta. Scusa Gianni, Anto, c'è mica il computer tu davanti acceso? In questo momento sì. Ok, perfetto. Allora vai su Facebook. Una volta che sei su Facebook vai alla ricerca di Memorial Gianluca Cosso e poi mi racconti. Sto entrando adesso, Sì. Sono... Ehi. Caspita. Acrobatico. L'hai visto? Esattamente sì, 539 amici. Posso aggiungermi? Anzi, mi fa piacere se ti aggiungi. L'allievo di Ciria. Quello è il mio campione. Io lo chiamo campione. Allora, lui, diciamo, diciamo che era, è stato diciamo un allievo, è nato con Cilia, si è fatto diciamo con Cilia, quel lavoro lì di pizzaiolo l'ha preso diciamo come passione, proprio passione proprio ce l'aveva dentro. Lui ha fatto molti campionati di pizza, pizza come pizza freestyle, ti posso fare qualche esempio, a Marbella in Spagna è entrato primo, poi a Las Vegas è entrato secondo, sempre come pizza freestyle. Ma li avevo seguiti fra l'altro perché usciva una pubblicità su Antenna 1, poi tempo fa, e ti dico, sarà stato almeno 3 anni fa se non anche qualcosina di più, dove facevano vedere tutta la squadra di Cilia, assolutamente sì, per varie volte avevano vinto il campionato. Sì, esatto, si conferma, diciamo che c'era Gianluca, diciamo il mio campione, e poi alcuni ragazzi qua di Polo Torres. Sì, so perché avevo degli amici appunto che hanno la pizzeria qua a Sassari, la Spiga, quelli di via Montegrappa, e anche loro avevano partecipato, però erano arrivati con le ossa rotte, non ce l'avevano fatta a battere la squadra di Porto Torres. Ok. E vabbè, diciamo che era tutta una passione, una passione come un'altra, diciamo, dai. Loro si preparavano per fare i vari campionati, diciamo, di pizza, Salso Maggiore, poi a Cagliari, insomma, in Spagna, Las Vegas, ne hanno girato molti posti, ma io a casa qua c'ho tutti i video, c'ho i video, diciamo, di tutte le manifestazioni, di tutte le gare. Poi sai, secondo me, stavo dicendo, realmente la pizza è uno degli alimenti che maggiormente ci rappresenta a livello internazionale, perché la pizza viene proprio vista come cosa italiana, ed è una delle cose su cui si può diciamo giostrare di meno, nel senso che o la sai fare bene o non la sai fare, e bene o male chiunque può dare un giudizio sulla pizza, perché è un giudizio oggettivo, per quanto il condimento può essere un giudizio soggettivo, perché c'è a chi piace in un modo e c'è a chi piace in un altro. Io ad esempio la mangio esclusivamente molto classica, e se le caperiacciughe, però è davvero un'arte, una maestria, assolutamente sì. E guarda, secondo me nasce tutto da questione di passione, Anto, devi avere passione, c'è poco da fare, perché io mi ricordo Gianluca si faceva l'impasto lui, si preparava tutto lui, l'impasto lui, gli ingredienti, c'era qualche ragazzo che lo aiutava, diciamo, per preparare la linea, diciamo, i vari ingredienti, diciamo, poi il sugo se lo preparava lui, i panetti se li faceva tutti lui, uno per uno, a mano, non c'erano panetti, vabbè, lasciamo perdere dal lunedì al giovedì, ma il venerdì erano minimo dalle 6 ai 700 panetti, c'erano certi venerdì e sabato che 700 panetti non le bastavano, ma per dirti, lui andava diciamo a questi corsi, c'erano dei corsi che lui frequentava sulla composizione delle varie farine, perché ci sono dei tipi di farine, diciamo, tipo la farina che adesso non mi viene in mente, un tipo di farina proprio per la pizza, poi diciamo la pizza senza i glutei. Lui quando preparava quella pizza lì aveva una stanza completamente adibita per fare quella pizza lì. Lui si doveva cambiare, si doveva lavare, si doveva mettere il cappuccio in testa per fare quel determinato prodotto. Insomma, è una passione. Tante sì, ma ti ripeto, vissuta secondo me con una squadra vincente, perché l'ambiente era quello, quindi si vedeva che si vede che lo fanno con arte, assolutamente, con la passione proprio. E poi guarda, sembra così, però quando vai a mangiare lì ci sono anche dei giorni dove sicuramente ci sono dei ritardi, ma questo è dovuto al fatto che la gente apprezza e riempie il locale, assolutamente. Gianni, riprendi. Ascolta un attimino solo. Capito, Osa. Assolutamente, la gente riconosce questa cosa qua, infatti se va in quel locale per questo motivo, evidentemente ha saputo motivare a suo tempo le persone e di conseguenza raccogliendo da buon imprenditore i risultati ne ha raccolto Ciliati. Caffa. No, diciamo che Cilia è un ragazzo dove io posso dire che ha iniziato diciamo anche lui a fare, iniziato come pizzaiolo, poi anche lui si è messo sotto con tutti i suoi grandi sacrifici, perché logicamente è un lavoro diciamo che porta molti sacrifici, sia fisicamente sia come sacrifici come questioni di orari, diciamo come un po' tutto, dai. Parole, sì. Assolutamente, ma adesso Cilia sta ancora lì. Aspetta un attimino. Sì, ti rispondo io, sì, anche lui fa le pizze. Sì, Cilia è sempre lì, è sempre lui che è lui, diciamo, il proprietario, lui che manda avanti tutto. Parole, un ottimo imprenditore. Vabbè, sicuramente ne avrà e ne sentirà la mancanza di una persona come Gianluca, assolutamente. Questo diciamo che è stato, diciamo, ma lui ha cominciato Gianluca stava andando all'alberghiero, aveva fatto l'alberghiero, poi è capitato, come si iniziano così, magari giocherellando così pian piano, è iniziato, l'ha preso con passione, l'ha preso come lavoro che le piaceva. Mi dispiace. E quindi lui, diciamo, faceva tutto lui, aveva la pizzeria, ce l'aveva lui in mano, la mandava avanti lui, faceva gli ordini lui, organizzava tutto lui, e poi logicamente diciamo che era quasi un braccio destro, capito? Sicuramente si era creato appunto quell'affiatamento che poi non faceva vedere più come datore di lavoro, ma come un amico, capito? Come un uomo di fiducia, come una persona a cui dare in mano la situazione se doveva assentarsi. Gianni, riprendi un attimino, che sto finendo di scrivere, perché sono entrato un attimino nel profilo, sto guardando un po' di foto, sto guardando un po' di cose, quindi mi servono tutte e due le mani. Gianni, riprendi un attimo. Io. E comunque ce la vogliamo organizzare questa pizzata, ce la organizziamo, anche a livello nostro non c'è problema, chi vuol venire viene, chi non vuol venire lo lascia. Ok, dai, se capita un fine settimana, giusto anche diciamo per passare diciamo un fine settimana, una serata di fine settimana un po' diversa, dai, giusto un po' così, va bene, dai, già, io vi lascio che devo farmi la mia fase giardina col signorino. Va bene, adesso buona passeggiata allora, va. Sta il freddo che ci sarà adesso, a uscita, a caldata. Sto tanto, durante il queste ore ci sentiamo, così viene, le prendi te la piace, un attimo di bianco per me che sto facendo una cosa, invece veramente al massimo. Ok, ciao Gianni, buon proseguo, ci sentiamo alle prossime. Ciao Antonio. Ciao adesso, ci sentiamo. Grodo, ripeti il passaggio perché vi siete sovramodulati. Ma sicuramente passa su lui. Ciao Sandro, grazie del QSO e ci sentiamo prossimamente. Buona passeggiata. Riprendi un attimino Gianni, che sto finendo di scrivere una cosa e riprendo subito. Ecco che riprendo, se non finisce là, ti passo. Vabbè, ciao Sandro, buona passeggiata. Grodo? Va. Mi ho approfittato andare in bagno. Oh yeah. Allora, stai facendo qualche tisi. Quindi andavo a scrivere una cosa un attimo. Due cose su un sito. Se stai facendo un testamento, intestami qualche cosa. Hola. Hola. 1, 2, 3, prova. Dove mi ha aumentato la radio, come va? Ha aumentato anche di molto, assolutamente. Pagava. Era basso il corso. Mi ha sostituito minimo. Fabio Roger, ascolta, io devo andare via da qua e riprendo dalla BM. Se ti va di trattenerti fra un 10 minuti e un quarto d'ora riprendo da lì. Mi trattengo, io la c'ho acceso qui. Vediamo un po' fino a quanto resisto. Via fra 2 minuti sei got. Comunque dai, dammi 10 minuti. Vai. Da ora in avanti, siccome di questi problemi che ho io su sul computer, ne ho anche altre mece, quindi sarà tutta una baracca. Poi l'ho modulata, ma te lo ricordi di Lucifero? Sembra, infatti abbiamo parlato, perché siamo stati in una, in un localino, oh, 10 minuti fa, perché ci siamo lasciati proprio 10 minuti fa, che conosceva questo, conosceva quest'altro, mi ha fatto numerativi di gente di roba dei 35 anni, va, ma che modulo da fare da ragazzo? Sì, sì, sì, adesso non modula più, ma ha modulato fino a una decina d'anni fa, modulato. Infatti abbiamo parlato che non avevo più modulato perché non ne valeva la pena, sì, due cazzate, via, non gli è più piaciuto, ecco, non mi ha lasciato perdere. Però lo so che ha modulato per parecchi anni. Sì, sì. Ehi, Antonello, prima che aiutasse il computer queste cose qui, eravamo in Grecia insieme, e uscivamo con le ragazze nostre insieme, tutto qua. Una persona in gamba. Vabbè, lui è stato sempre uno scappalone. Sì, sì, sì, quello sì. Scappalone, ma sempre con ragazze. È un bel giorno di razza, perché so che anche adesso ha agganciato a qualche persona, insomma, a qualche donna. Sì, ma è... non va mai a un fine, sempre cambia. Ma sono quelle cose belle, uno che rimane così sempre neutro, è meglio che rimanga sempre sul fivolà, perché oggi purtroppo non tutte le ciambelle hanno il buco e quindi anche lui rimane così, perché evidentemente ha avuto esperienze, forse, non lo so, mi annuncio a dire negative, e quindi a causa di questo rimane con il piede di piombo. No, no, non è così, è proprio il suo modo di pensare. Quando finisce l'amore, lui gli piace per le ragazze così, e poi, capito, quando finisce si molla, ci mette con un'altra, e ce l'ha quando dura. Il farfallino, gli è un bel volpino. Raga, è fatto così, e è stato in Inghilterra un bel tempo. Già mi ha spiegato che ha girato un pochettino, ma io ti stavo chiamando quando lui è venuto qua, che stava cominciando a operare, sono entrato in radio, ti stavo chiamando e non mi ha risposto, non lasciavate neanche uno spazietto per farmi un break. La cosa è così, dopo che io a lui ho telefonato, quel numero che avevo poi ha risposto, quindi vuol dire che c'è sempre quello, o ce l'aveva spento il giorno, che cosa, ha risposto a quel numero. Quindi io sono rientrato in radio per dirti che la cosa era fattibile, che già veniva. Ma quando tu gli hai dato il numero, a distanza di 5 minuti neanche, ma hai fatto frullare, capito? Quindi sono andato a rispondere e ho detto stanno eccetera eccetera. Ah, benissimo, allora dice tra 5 minuti e ci sentiamo in un certo posto. Allora lo dai giù, e sono andato là, l'ho recuperato, sono venuto a casa, quando hai incominciato a operare, io la radio l'avevo lasciata accesa, ti stavo chiamando ma non mi hai dato tempo eri non so con chi eri. Stavi, praticamente non mi davate spazio a fare break per chiamare, ti stavo chiamando e mi rispondevi. Non ti ho sentito, se no, volentieri, probabilmente l'avevamo preso da qualche discorso, tante volte si sbaglia, lo so, ma quando sei preso da un discorso magari rendi conto, capito? E vabbè, interessante che abbia risolto il problema. Sì, no, ma i segnali erano alti, quindi mi sono accorto che eventualmente stavo volando, adesso non mi ricordo con chi eri, ma il segnale era alto, quindi non riuscivo a entrare perché a me non mi ascoltavi, perché appena mollavi agganciavi subito e non c'era il tempo di tutto. Quale fa il nostro problema? Ma sai che cos'è? Già, molte volte hai uno strumento che non funziona bene, lo devi portare qui, quello non te lo fa bene, non sei contento. Ecco, in questo caso noi abbiamo trovato l'anima gemella, come si dice, che si prodiga andare in loco e lo sistema lì, è lì il problema, poi costi quello che costi, purtroppo costa qualche cosa, però almeno hai risolto. Invece in questo modo lo dovevi prendere l'apparato, portarlo dove lo dovevi portare, gli dici cosa devi fare, non te lo faccio, fa altre cose, si chiama, dice, confetto di apposta, vado a prenderlo, lo porto a casa, lo piazzo, no, gli telefono, guarda che questo non è così. Tutti questi intrambusti, quando passate che questo stupido qua venisse direttamente in loco, è lo sistema lì, ci sono problemi, sì, come fai questo, mi manca questo, aggiungi questo, aggiungi questo. Le cose si fanno così, ma perché questa gente non si deve muovere? Ma cosa c'hanno in testa? D'altronde è passato da poco anche in Inghilterra a fare un sito, una ditta inglese che ha anche la sede a Sassari, è andato a fare quello della sede a Sassari e gli hanno chiesto se poteva andare in Inghilterra, tutto spesato di viaggio, albergo, tutto quanto, è andato lì, ha fatto il sito, 500 euro e se ne è tornato. Immaginiamoci. Lui non ne fa molto di questi lavori. È bravo, ma anche noi l'abbiamo fatto tanti lavori, li ha fatti a me, pagato, è un bravo tecnico, l'ha sempre fatto da ragazzo, ma io l'ho conosciuto prima che facesse questi lavori qua. E ha fatto un po' di tutto, ma non è quello il discorso, io ce l'ho con questi fantomatici tecnici che, a dirti la verità, quello che me l'ha venduto è un bravissimo tecnico, quanto Antonello, per carità, io non lo voglio discriminare nessuno. Il problema è che non lavorano, cioè sanno lavorare però non lavorano, sai perché non lavorano? Perché non ne hanno tempo di lavorare, e sono sempre disperate, corrono una parte all'altra. Bisogna sedersi un attimino, cioè meditare, perché fai le cose a modo tuo? Il cliente ti ha chiesto di fargli questa cosa e lo devi fare come ti ha chiesto lui. Se non lo puoi fare perché non hai tempo a disposizione, allora gli dici al tuo cliente, non ti posso aiutare perché sono incasinato, che ho tanti di quella maniera di lavoro, ecco, allora lo mandi via, non ti chiedi a caparri e fai una piccola ripristinata giusto per dargli il contentino, così lo stai rovinando, perdi l'amicizia e perdi anche il cliente, eccetera eccetera. Beh, loro, capito, fanno così per arrastrare i soldi a tutte le parti, normale, no? E arrastrare un po' da qua, un po' da là, un po' da là, e si fanno il gruzzoletto. Sì, ma dico io, che non se li mi prendi 20 euro, a parte che me l'ha fatto sempre gratis di questo lavoro, però tu me lo fai gratis che vanno non stai lavorando. Poi io gli dico, guarda, sistemamelo, prendimi quello che mi devi prendere, se devi spendere un'ora, due ore, ma come vuoi prendere 20 euro, 30 euro, prendimi 30 euro, ma lavoraci, fallo, questo lavoro lo devi, non vedi che non mi piace, che non va bene, salta, si inchioda la come si chiama, la freccia, ma non deve fare, tu deve lavorare bene, se tu vedi che non sta facendo, che fa questo lavoro, che fa questo difetto, il difetto tu lo sai come risolverlo, se non lo puoi fare, me lo dici che non ne puoi fare, e lo molli, così me ne vado dall'altra parte. Beh, sono contento comunque che abbia risolto il problema subito, anche tanto veloce, anche Antonello, la verità. Anche se era un giorno di festa è venuto e ti ha accontentato, io gli ho detto fa la cortesia che deve lavorarci col computer e gli serve subito, se è possibile chiamalo subito, vabbè, dice già non ti preoccupare, adesso se è telefono subito e via. Sì, ma adesso ne ho un altro da sistemare, l'ha già visto, quest'altro qua adesso di nuovo, fagli lo stesso lavoro che ha fatto a questo, e però questo ci sentiremo lunedì o martedì, forse martedì perché lunedì sono impegnato, non posso, e quindi mi sistemerà anche l'altro, ma perché dico io, uno non fa le cose che deve fare, non essere serio e dire non la posso fare, te ne vai a posto, niente. Si incamerano i materiali e poi si servizio servizio. Ma sono portatili? No, negativo, sono no, uno è un portatile, l'altro è sezione fissa, stavo dicendo, è un'unità centrale. Cioè sono computer nuovi, non sono computer di 30 anni fa, sono computer che hanno un anno, uno ne ha due e uno ne ha uno. E sono nuovissimi, sono 200 giga, 300 giga. Ma sono i giocattolini, se c'è qualche virus, qualche cosa che si sono rallentati, e quindi in base a questo non c'è nulla dentro, uno è addirittura quasi vuoto, L'altro era, c'erano dei fari, ma cosa vuoi che sia, la tua capienza ne ospita il quinto fuori quella lì. Però erano lenti, perché c'era questa incombenza, o qualche virus, o qualche strano cosa. Tu su internet entri? È certo che ci entro, ma certo soltanto per ascoltare musica, perché mi devo aggiornare. Tu a livello sempre di musica, e in che li fai? Solo musica, io non vado in siti strani, pornografici o cose del genere, io vado solo a ascoltare musica, perché mi devo aggiornare secondo le canzoni che stanno facendo nuove, certo. E certo. E vabbè, comunque, Antonello, se si può fare, già te lo fa tranquillamente, non è che l'impossibile non lo riesce a fare, ma dico, le cose le fa, se dovessi far rifare, lui lo fa. Tranquillamente, a me mi ha messo a posto un computer, me l'ha resettato uno, è formattato bene e poi gli ha rimesso tutti i dischetti, tutto quanto, ci ha messo una sera. E se c'hai la tua vita, Antonio, gli piace molto, la tua vita è la bella, quanto se la bevuta a casa. Quando non me l'ha detto, se ha bevuto solo qualche bicchiere di vino, se gli piaceva, ma bastava dirmelo, gliel'avrei offerta. E ce l'ho una acquavite buona, grappa più che altro, che è tra grappa e acquavite, ma buona veramente, non me lo dovevi dire, che amante. Se sei ascolato un impulla a casa, e se ogni volta che veniva, sempre va solo perché a casa non la serviamo. Me l'avevano regalata, che era fatta in casa di quella doc. Ma ci hanno bevuto una bottiglia di vino, me. Poi alla fine era un pochettino così, dicevo, non voglio bere più altre, perché ci sono fatto la posizione di pigliare la patente, non ne può su, non può, gli avevo di pigliare la sala a Sartoria. Pagava. Non può, già, mi vede un occhio solo. Oh, che scena. Dai, bravo, ma un bravo ragazzo, un bravo uomo anche come carattere, ma si vede anche il concetto della persona, no? Come principi. Sì, sì, sì, una bella persona. Gamba, come. Ti ripeto, ci conosciamo da ragazzini, uscivamo con le fidanzate, io sono sposato 21 anni con mia moglie, penso che lei che ci conosciamo, uscivamo con le fidanzate insieme. Ma tu però già hai qualche anno in meno di lui. Sì, sì, sì. Lui è molto più grande di me. Quanti anni c'è? 55, Antonio. No, è del 55. E io sono del 59. Quindi ha almeno 4 anni in più, dai. E ha 56 anni, Antonio. Quasi, dice, lui dice che quasi 60, si sta aumentando qualche anno. Per il 55 è più va guardi. Però pensava che io fossi più piccolo di lui, però ci è rimasto male. Vabbè, vabbè. Pagato. Vabbè, comunque, gli andavo tingo. Non vediamo un po' c'è stato Grobbe. Penso che devo prendere la macchina, 10 minuti. 10 minuti su e si sa quanto so. Ma forse sta agganciando qualcosa. No, la sta sganciando. E sta venendo la casa della ragazza, sta a casa sua. Non è sposato? No. Ma se non fosse sposato, Antonio, io lo conosco tanti anni, Ma non è sposato, perché non scappa loro? Ma che strano, io l'ho conosciuto una quindicina d'anni fa. Il primo periodo che stava forse iniziando, penso, a modulare, poi ha smesso. E ci siamo conosciuti perché siamo andati a appuntamento all'uscita all'estate per andare a Rugini. Mi sembra che mi ha parlato di moglie, non lo so. Io so che non è sposato. Se fai così vuol dire io così. Lo conosco poco come persona, ma so che fidanzate, ma se c'è detto che è fidanzato vuol dire che è così. Poi se c'è una vita nascosta non lo so io. Beh, oggi ce l'aspettate di tutto, oggi. C'è gli scritti nel cassetto. Oggi è un casino, per carità. da un giorno all'altro ti ritrovi ribaltato come un come uno sfoternato. Sì, c'è non è che le trascuriamo, c'è pure di medicapo. Sì, le donne non sono trascurate, le donne che sono viziate, molto viziate rispetto a molti anni fa, c'è stato un ripristino tra virgolette, c'è stato un cambiamento e quindi questi adesso hanno preso un certo sopravvento che a me non piace. Non manca, ma io penso che ognuno deve avere i suoi ruoli sempre nelle maniere dovute, dove non arriva uno deve arrivare l'altro, però questo tipo di sopravvento, obbligare l'uomo a lavare i piatti, obbligare l'uomo a fare quello, sì che lo fa. Io per dire, oggi ho passato la giornata a casa e ho cucinato tutto io, ho fatto il sugo, ho fatto i ravioli, ho cucinato il pollo in forno, ho fatto tutto io, ho lavato in terra, perché mi è venuto in mente di fare così, ho fatto così, ho dovuto aiutare, però non mi piace essere comandato, quello non mi piace. Sì, queste sono cose belle, però non è che a un certo momento un uomo succube, per carità, non sia mai, è che se le cose le vuoi fare a tuo piacere, è perché te ne senti di farle per dare un aiuto, un contributo alla casa, alla famiglia. Ma la donna non è che lei, perché è stata sempre un'ancella dagli anni in là, oggi deve prendere un sopravvento e l'uomo faccia il suo posto. No, non sono d'accordo, perché mi piace, ma in casa i calzoni li cacca il maschio, non la femmina. Ma diciamo che io sono d'accordo anche a avere degli accordi, quando si fanno le cose parlano insieme, cosa, ma non farci mettere i piedi sopra, quello non lo sopporto. Quindi se lo decido io, poi li lavo in terra, lo faccio con piacere, e me l'abbiglio cantelli, accendo la radio, faccio, e mentre faccio ascolto, capito? Però se mi obblighi a farlo diverso, la vedo già in una maniera diversa, capito? Cioè, deve nascere da te la cosa. E a me, quando io ho il tempo, diciamo la voglia, nel senso che non sono stanco da lavoro e cose, mi fa piacere anche fare certe cose, mi piace cucinare, mi piace fare le cose anche in casa e cose, però non mi piace essere obbligato, ecco, quello sì. Beh, ma essere obbligato va a significare che evidentemente c'è una concessione, hai concesso alla tua compagna di dimostrarsi così nei tuoi confronti, ma se tu questa concessione non gliela dai dall'inizio, non si permetterà mai di dire tu devi lavare per terra, tu devi lavare per terra, tu devi fare questo, tu devi fare quest'altro. No, non esiste. La donna non è che deve fare l'ancella, la donna deve fare il suo ruolo, la donna di casa, che le cose che aspettano a una donna, a una moglie, sono quelle là. Le cose invece del maschio sono altre, quindi non è il maschio si deve mettere a lavare i piatti perché per far condicio, queste stronzate sono delle vere e proprie stronzate. Ecco, come dicevi tu bene, che i piatti li vuoi lavare, vai e li lavi, il tuo principio, lo capisci tu quello che devi fare, non deve essere imposto o detto, chi me lo deve dire? Ma io arrivo a una certa età e mi devo sentire di dire a mia moglie, lava i piatti, ma non c'è mai visto. Scusa, c'è un amico che la moglie lo fa dirigare un bel e si dice fai quello, fai l'altro, fai l'altro, alla fine poi bisticciano perché poi non ce la fa più, esplode, è loro male. Io mi ha detto non posso io fare tutte queste cose qua, torno dal lavoro stanco e mi dice beh non li davo i piatti dopo pranzo. Caro Gianni, quello non è un uomo, quello è un mezzo uomo, anzi forse un quarto. No, è un succubo della moglie, io gli dico tu cerca di farglielo capire, nelle buone maniere prima, fagiolo. Lei dice che gli dice sempre che lei non è una schiava, che deve collaborare anche lì. Sì, ma non funziona così, no. Evidentemente il cervello è un po' baccato a questo di questo personaggio, a mio parere. No, siamo di pensare. Le donne sono molto femministe, è per quello che si distruggono le famiglie, perché la donna non è mai contenta, dice che il marito non l'aiuta, che questo, quell'altro, ma io non ho visto mai mio padre, sono andato a fittirti, ma che arrivava dal lavoro, tutto ciò che mia madre lo aspettava alla finestra. Come lo poteva rifare subito, il preparava l'asciugamano pulito e rimetteva subito il minestrone a raffreddare il piatto, per dire. Lui arrivava, si lavava le mani, si bruciava e mangiava. Così è che vuole la donna, non ed era apprensiva, se non lo poteva rifare, oh mamma mia Mario, cosa gli è successo? Cosa gli è successo? Ma tranquilla che già arriva, Sono finiti quei concetti di quei tempi, già, non ci sono più ormai, è tutto cambiato. Tutto cambiato perché è stato dato un vantaggio alla femmina di fare così. Se non ci fosse stata questa cosa qua, queste cose sai che le fanno? Le fanno le donne che lavorano, ad esempio i mariti fanno i fabbri, loro magari lavorano in banca perché hanno un diploma eccetera, sono riusciti ad entrare in un'azienda e lavorano, quando ritornano a casa vorrebbero che i mariti facessero le femmine e loro vorrebbero fare i maschi, c'è questo scambio, infatti perché divulgano? Perché c'è questa incompatibilità? Se le donne dal 1960 non fossero state assunte a lavorare, ma fossero rimaste a casa, gli uomini avrebbero lavorato, le donne sarebbero rimaste a casa e in questo casino non sarebbe successo. Ma io penso che sia anche una questione caratteriale, perché io sento tante amiche che dicono io non lo obbligo mio marito assolutamente. Lo capisco che torna stanco dal lavoro e che non può fare l'uno, fa il suo di lavoro, ma sì che lavorano tutti e due, è un conto, uno si dà una mano con l'altro, io con mia moglie quando lavoravamo tutti e due, chi arrivava prima metteva la pasta sul fuoco, cominciava a preparare, ma senza mai un obbligo, si faceva di comune accordo. Sì, questo è una cosa bella, perché se c'è un certo contesto si riesce ad avere a fare un accordo, ma il problema è che oggi non c'è questo tipo di discorso qua, molte donne lavorano, molte donne sposate lavorano o in banca o in aziende qui e là, e quindi quando escono da casa pretendono che i mariti si diano da fare anche essi. Ma i mariti, certi mariti, certi uomini che lavorano, fanno tipi di mestieri che non, quando arrivano a casa sono stanchi, perché chi lavora ad esempio, prendiamo i carpentieri, che sono stanchi, perché il carpentiere non è seduto in una scrivania battendo la macchina una lettera, molte lavorano in assicurazioni, molte ragazze lavorano in banca, molte altre in aziende, eccetera, eccetera. Non sono seduti i mariti scrivendo una lettera o facendo una macchina, una fattura, un'entrata, queste cose qua, no, non sono in un ufficio, sono a tutte le intemperie, nei palazzi usando il cemento e sono stanchi i muratori, i fabbri, gli idraulici, non stanno seduti, sono stanchi, quando arrivano a casa devono trovare una donna che la fissa, non a grattarsi i coglioni tutto il giorno, e quindi questo è venuto a mancare a causa di queste assunzioni. Allora, devono trovare un paradiso a casa sua, la donna che lo aspetta, che li possa trovare tutte le cose, perché già nervoso si accumula lavoro, specialmente quando fa lavori pesanti, ecco. Quando torni a casa vorresti trovare un'isola, un'isola tipo le Caraibi, ecco, così dovresti trovare il tuo punto di relax. Avanti. Sì, con realizzo Fabrizio Sotto Parcheggi che sta uscendo. Sì, ciao Fabrizio, hai sentito? Con realizzato più una per questa parte. È in compagnia di di Vittorio Volpe. E ciao Gianni, ben sentito, io mi trovo proprio stiamo andando praticamente. Sono dei sparchesi e sto benissimo, sono due taiti che sto facendo fuori. Ciao Volpe, se mi ascolti ti sento più basso, avanti. Ben sentito, dai, io ti ascolto bassino anche. Oscillante, se sei in DM naturalmente oscilla. Basso, ma ti ascolto, via. Salutami ancora. Ok, Volpe, io ti sento, ma bassino, forse magari come mi avvicino, sono molto distante, magari tu mi ascolti, ma io ti ascolto bassino, dai, riprendi Gianni. Qua sei inoltre, sei da 7 a 9. Va benissimo. Anzi, sembrerebbe scrivere uno di quei linearetti che mi fa una cortesia. Se lo vedi dimmelo, perché quello me lo stavo tentando io. E non devo usare quello lì, troppo bello quel lineare. Va bene, non distorce tutto ok. Cappa. No, io l'ho sentito abbastanza bene a Fabrizio. Stavo facendo un discorso, non dico maschilista, ma giusto, dai. Ho sentito qualcosa quando stavo prendendo la macchina, capito? Ho sentito qualcosa. Sì, già, va bene questo, io per me trovo la settimana, ma il giorno che ho svolto la macchina, quello l'ho fatto, sento io, guarda, ho il gioiellino, poi ho staccato anche la loro, ho staccato la scatola, ho staccato anche alla loro, perché tutti l'ho portato bene per non graffiarlo, perché io queste cose un po' te le spiegherò oggi, perché sei un lineare, vedete, però cosa era talmente, dice, ho usato due volte, già l'ho diretto, per prova, ed era veramente così, era vedere, io che ti capita te lo faccio vedere, che tanto è una bomba. Appaga. Già va bene. Bene. È un discorso generale sulla evoluzione della donna. È meglio che sia così la donna, che sia un po' più evoluta. A me la verità, la donna casalinga non piace. Non so, io sempre la trovo un pochettino. Preferisco la donna che lavora, la verità. No, ma io non dico, non discuto su quello. Discutendo sul fatto che un amico che per dire, quando torna a casa la moglie torna a stare con la trava e gli dice lavo i piatti. Io lo faccio a casa, però lo decido io, capito? Lo decido io quando farlo, quando me la sento lo faccio. Ho capito, no, io purtroppo per me, purtroppo per mia moglie, la vita non faccio niente, a casa sono stato abituato così, perché mio padre era un aereo, un calcolatore, mamma lavorava e faceva tutto, e io sono stato abituato così, ho detto la mia moglie, quindi da calcolatore sono fortunato, non so cosa vuol dire fare i piatti, né fare un letto, né fare niente, non sarei in grado di farlo, la verità, infatti mi dice, ma se non ci fossi io, guarda, se non ci fossi tu, non ci sarebbero problemi, io lo so già, ma tanto avrei avuto una casetta più piccola, fatta sulle dimensioni, fai due volte a settimana, una donna, una volta a settimana, no, una per pulire, una volta a settimana per tirare, e tu avrei buttato sulla lavatrice, capito, due volte una donna, mezza giornata avrei risolto, capito? Quello sì, ma io ho capito che si lamenta sempre, non me lo dici. Mi dice, mi diceva sempre per queste cazzate. E lui vuole sempre che io faccia. Lui dice che non è una schiava che devo lavorare anch'io. E ho detto, io lo faccio lo stesso a casa, però quando ne voglia, quando me la sento, deve nascere da me. Se l'ho obbligato non mi piace. Buonasera a tutti. Non so. Ben sentito, da dove stai modulando un po'? Vado, dimmi. Da dove stai modulando un po'? Da casa. Ma che strano, non arrivi fortissimo qua, mi sembra che prima arrivavi più forte. Lo so che c'erano parecchie due antenne, quindi sono in fa da letto adesso, e quindi sono dentro al letto. Ho capito, no, perché strano, da lì in genere qua arriva il piccolo e Claudia bomba, e oggi invece sei bassino, ho capito, invece Gianni, vabbè Gianni è sempre il suo segnale. Fa già. Ma la microfonia com'è? Claudio mi ha detto che la bassa adesso gli ha fatto zitter. Com'è adesso? Bene qua a un certo punto adesso sto facendo la corsa. Pazienza. sono. Sai, quello che non fa, mi sto io volta, ma... Ciao Antone, ben sentito. Come ci vuoi fare? Purtroppo è una lotta. E allora andiamo avanti, così allo bene meglio. È importante tenere avanti però, Beh, certamente che sì. Antonio, come c'è Antonio? Lo fa tutto quanto a casa, vero Antonio? Già non credo, già faccio tutto quanto. Non mi ha salutato, in mezzo sono io. Purtroppo faccio tutto. Casa, lavoro, lavoro, casa, tutto faccio. Anche gli altri addirittura. Se non c'è Antonio, proprio non c'è proprio niente. Anche il cavo degli altri, purtroppo non posso farci niente. Mi sento molto stanco, Antonio, come mai? Ce l'ho grido. Sto male. Stanco perché altro guarda, stanco. Quando fai? Poi a fare quello, poi devo fare anche i lavori di casa, di non mia, degli altri, quindi in pratica devo passare due famiglie, fare la spesa a due persone, capito? Perché mamma è ingessata, quindi devo uscire io, fare le cose, quindi sono molto stanco la verità. Da qui a Pì, forse avessi la macchina almeno, invece devi andarci a Pì. E quello infatti, sono qua a piedi. Io, vabbè, già passerà questo periodo. Andare. Avanti, chi tocca Fabrizio? Riprendo io. Oh, Topo, non ti preoccupare, Gianca, non ti preoccupare, che già c'è la ripresa, quindi andremo tutti a stare meglio, non ti preoccupare. D'accordo, già ho fatto una vita bella, non dico, se ce l'ha fatta a noi, almeno una settimana, guarda, se ci accontenta tutti, siamo a posto. Va bene, dai. Ascolta, non mi stavi dicendo, ma che antenna stai usando? Non stai usando la solita antenna? Da questo sono adesso. Ce la compri nel terrazzo, solamente quella, se provvisoriamente. Dopodiché l'altra è già... La mattova c'è la mattova, la 27 pure funziona bene, è a posto. Mi assento un attimo. Ti ascolto da... Adesso sono... Ok. Corso per l'ingresso della strada Due Mari. E quindi se ancora ti ascolto bene, non c'è problema. Lo riprendi, Gianni? Esattamente a Rosario. Dopo io questi nomi non li conosco, eh. Ma io sì. Quello si chiama Rosario, dove c'è l'ingresso delle Due Mari. Tutto c'è il rosario. E ho capito, pure almeno io lo sapevo. E allora, con il nome, i cognomi, località, per carità, lasciamo perdere, comunque. Ascolta, ma il confronto di questi giorni a qualcuno ha fatto danno? Ma no, personalmente. Ma poi ho visto il vento rientrando, l'altro giorno ho visto l'antenna e andava da una parte all'altra, ho fatto lui, mamma mia, invece grazie a Dio al vento in andata, però si già faceva dei bei movimenti, mi ha detto, La mia? No, la mia, qui non poteva cacciare altro, adesso. Ma la mia si muove, c'hanno vestiranti la mia. Non è a moto, si muove solo la punta. Io ho 3 giù, ne ho 6, quindi già va bene. Io sono stato esagerato, ma mi tiriamo per maestrale a me. Vabbè, anche noi quando prende il vento, però già... Già va bene così, dai, già va bene così. Ma non lavori domani, già? Sì, lavoro, sì. Proprio io stiamo crepando, guarda. C'è un bel lavoro. E quindi oggi me la sono presa a rilassarmi un po'. È andato bene, oggi era giorno di festa. Va bene, così erano tutti aperti, Non sono uscito io, non sono uscito per niente, oggi mi sono dedicato alla cucina, ho cucinato, e diciamo ho aiutato con mia moglie e poi mi sono pulito l'acquario, ho fatto un po' di pulizia, ho recuperato alcuni avvaluti che erano scappati dalla sala affatto, se non si rimagna, li ho recuperati. Ho fatto, quindi a casa meglio va bene. Già va bene, io me ne sono scappato, devo lavorare, meno male. Io tutti e due, un bambino con la febbre a casa, tutto il giorno erano tutti e due a casa, mi fanno uscire di testa, quindi mi sono riposato di più al lavoro. Piccolino, evacuato, vai là. Ah no, vabbè, io devo lavorare, era una scusa buona. Tua moglie ha lavorato? No, mia moglie non c'è andata in negozio, come faceva andare in negozio? Che i bambini che stavano male, la mia che stava male è passata, ma ho visto che c'è stata poco perché mi sono alzato tardi, quindi è rimasta fino alle 9:30 a casa, l'uscita è rientrata anche abbastanza freddo, quindi vedete ci siamo passata poco in negozio, boh. È piccolino che c'è la freddo. Il grande, ieri l'ho preso da scuola, poi faccio un mal di testa, dove voglio andare in palestra, ma gli ho detto, l'ho portato a casa, aveva la febbre. La scuola è l'unico posto dove si contagia uno con l'altro, tutte le malattie di viso. Vabbè, normale, sono bambini. Gli anticorpi sono qui, non c'è poco da fare. Sono tutti malanni, ma diciamo che è meglio, per dire, vai cena, morbido, meglio passare da piccoli che da grande. Sì, poi si fanno gli anticorpi, già va bene, la sta di fare. Abbiamo passati tutti, dai. Oh, un po', io riprendi se mi ascolti. A voi dove ti sento, dimmi. Sì, vabbè. Ha detto di riprenderla. Oh, Gianni, ma com'è la mia radio? Sempre buona o c'è qualche problema? Oh, va benissimo. Allora va bene, no, giusto perché ero un po' che non la prendevo questa macchina e quindi la stavo provando se tutto funzionava, dai. Oh, Volpe, mi ascolti? Studio, aspetta che siamo un parato un attimo. Stesone, il 2000, eccetera. Mi sta usando la Lafayette, il 40 canale omologato, poi sto usando il 2000, il Proxwell, quella... quella scarpetta là, sempre così, va bene, là, con la quarantennino là, e va bene, una bomba. Ma poi l'avevi risolto il problema del letto? Ma adesso non sta uscendo, ecco. No. E aspetta. Allora, ecco. Ora? Sì. Forse, aspetta che mi guardo le regolazioni. E dove sei tutto al buio, Ortello? Ora, già sta uscendo. C'è anche più forte la microfonia, lo sai. E mi sento un po' più forte con quella specie che qui non è, ecco, poco, là. E un effetto camera, là, comunque va bene. Come c'è lui? Effetto verbo, quello è. Cos'è? Effetto verbo, l'ho detto. Volpe lo fa, ma non è colui. C'è quello. C'è quello. Volpe lo deve fare una specie di vibrazione, quando fa il profetto robot, così, appena appena di me. Non è fatto robot quello, è diverso, già. Comunque così va benissimo, e aumenta la radio, esce bene, la radio è bella, pulita. Signore, così, una volta come l'appoggio si sposta leggermente, siccome tengo tutto al due, però per dare l'eco poco, devi dargli un pelino e lui va bene. E quindi, volte come l'appoggio nel tunnel della macchina, magari si sposta di pochi millimetri e lo perde, no? Quindi, 3 al 4, probabilmente. Al quarto cosa? Dal 3 al 4, l'eco. Ecco il volume? Capo. Allora, così è dal 3 al 4. Certo, lì, come va bene. Bello forte. Se secondo te va meglio così? Capo, lì. Vabbè, limite a me va bene, come adesso, in questo momento. C'è una amplificazione a posto, quindi. Vabbè, accettabile, andiamo. Tu non te l'hai mai comprato di a me migliori? No, la verità no, io la verità, quando mi cominciavo nel 1500 ho regalato insieme alla Balacchino che come di cosa di Dalghero da poco ho regalato tutti e due regalati. Ah, non c'è andato, non c'è venuto quello di Alghero. Oh, ma tu dietro il Balacchino ho regalato la verità si ricca. Ha fatto un bel casino Banuto. E infatti, poi mi ha dato la parecchia del vita, l'ho regalato a Giuseppe l'altro e quindi siamo a posto. Sono tranquillo e qui non devo niente, mica messo diciamo qua, no? Ho fatto altri due regali ho fatto più che altro. Vabbè, per Natale. Cosa hai regalato a Giuseppe? Quale hai regalato? Quello di Alghero? No, non l'avevo dato come l'avevo regalato l'altro, il Galaxy Pluto. Ah, quello è bello, il Galaxy Pluto è bello. Lo so, ma quanto sembra, boh, non mi sembra neanche contento la verità. No. Bello. Cosa c'è il microfono normale? Ma amplificato ce l'ha, cosa normale? È una bella apparecchia, quella si può fare una bella apparecchia. Magari è grande, per mettere con la macchina, ma è una bella apparecchia. Ah, boh, lo so, io non so cosa dirti, la verità. Comunque sia, io ho regalato quella, all'altro ho regalato quello di Alghero, quindi ho fatto due regali. Ho fatto bene. Almeno ti senti con l'animo a posto. Sì, l'animo a posto, se non sono io, cazzo l'animo a posto. La balla, non l'ho regalato mai incontro nessuno, la verità. Sì, vabbè, se un regalo si fa si fa di cuore, non è che se per farlo di fronte è meglio non farlo. Io però penso così, se non vuoi fare un regalo lo faccio, ma non me ne pento. Certo, non me ne pento la verità, però quando tu mi fai un regalo addirittura e poi ti chiedo un altro, cosa fai? A mia mazza forse. Ma no, dopo lo faccio male le musica si rinega. Appunto per quello quindi, da poi, adesso non c'è più. Quando mi cadono le cose, non esisto più io adesso, non faccio più niente a nessuno. Mi ricordo che quello che avevo detto io l'altra volta che ti volevo dare, che tu io no? L'ho dato a Giuseppe. È giusto per me, io te l'ho detto, se tu non lo fai, ti avevo detto un importante, io te l'ho dato a Giuseppe, io te l'ho dato anche a Turbanattino, e a me niente. Te l'ho detto io l'altra volta, mi ricordo che sono bugiato. Fai te lo guardi con il baracchino, se tu lo vuoi vedere, lo so, fa quello che vuoi, lo so, sono cose tue e sue, io ho regalato a lui e basta, perché glielo ho promesso, non per altro. Vabbè, io ho messo in macchina, avevo visto la mia, l'ho promesso anche dell'altra, l'ascolto, però poi è un casino. Troppa roba, anche perché alla fine in macchina non uso quasi niente. Sì, è intanto spero come stare l'altra macchina. L'altra macchina è originale, io dico la verità, sono preso questa perché mi sono arrivati 3 CD, che ho rinato perché qua nemmeno le mie suggerie stanno del telefono, non so se le conoscete, e tra Mingoni e Ferrucci fanno un assolo di contrabbasso e voce femminile molto bella. E quindi li volevo ascoltare, essendo almeno il piacere di ascoltarli con questa macchina, perché a casa altrimenti viene male a accendere l'impianto. Però quindi diciamo se con questa macchina li stavo ascoltando, mentre un'altra macchina è l'impianto di serie, se lo sente qualcuno dice ah, ma lo sente bene. praticamente una centralina che tu colleghi, interfacci, e poi col computer puoi fare i ritardi temporali, hai tutto un parametrico, quindi puoi imparare la macchina e migliora, io ho sentito che migliora di parecchio, sempre per quello che può dare un impianto della macchina senza stare a modificare niente, ma non mi ha dato risposta di questa centralina, sto aspettando. Costo? Costo 500 euro per questa centralina, arriva dalla Germania. Non è una cosa che si vede oppure è una cosa nascosta? No, la Germania è una scatoletta come può essere finale, un amplificatore, lo vedi dietro, col capo arrivi all'interfaccia, che poi la Germania radio per modo di dire, c'è tutto un caricatore dentro che è tutto un compatto con l'aria condizionata, no? Comunque tu dovresti sfilare il capo dell'autoradio, oppure il cavo comunque che interfaccia nella macchina e ti interfacci questo cavo già tutto pronto che dovrebbero dare e l'apparecchio tu lo metti dentro il cofano dove vuoi sotto il sedile, lo nascondi, è connesso con un cavo, poi colleghi un altro cavo e col computer tu entri dentro e fai tutto quello che devi installare nella macchina e poi stacchi il PC e rimane la macchina tarata, e con un tasto puoi togliere la taratura o rimetterlo tutto di serie. Deve solo per parlare di impianto, non è che ti fa una sorta di amplificatore? Sì, amplificatore, lui praticamente prende il segnale, lo rielabora, lo amplifica, sempre pare 35% per canale, forse 40% con 4 effettivi, lo riamplifica, lo rifatta dentro, poi la cosa più importante è di poi fare i ritardi temporali, almeno riesci ad avere un impronte sonoro accettabile, la cosa più importante secondo me in un impianto, e poi puoi tarare tutta la... adesso non so quante bande questo parametrico, però io lo due, questi buttano analizzatore, analizzo e poi io butto poi un po' di CD a orecchio e te la cavo. Io l'ho sentito così e in fiera ha un ottimo miglioramento, la verità, è veramente bella. Per gli impianti di serie non toccare niente l'ideale, poi se una volta che hai quella lì che ne voglia, puoi smontare, cambiare il altoparlante, fare qualcosa, però in macchina come la mia non ti puoi permettere di cambiare niente, capito? Sarà smontato, magari ti si rompe un qualche pezzo, così. No, poi non ho problemi, io guarda, lo facevo, quindi io le macchine le ho sempre smontate, ma se smontate non intendo dire proprio smontate, fatte in mille e un pezzo e poi ripiazzate senza nessun problema. E avere la fortezza che se smontando le macchine, se vogliono smontare le macchine le Volkswagen, BMW, non c'erano problemi, quelle clac, le rimontavi tutti, invece macchine come può essere la Renault, come può essere le FIA, macchine un po' più curiosi, e avere tutta flippi, quando ti rovevi un clip in mano dovevi avere la fortezza di cambiare, non stare a rimontare, invece di prendere 5 clip ne montavi solo 4, perché poi qualche vibrazione la trovavi. Vittorio! Il Vittorio si è allontanato per finire veramente quanto fa. Lesio, ok, adesso si è allontanato, preso il drumino. Stai addormentato. Un giorno che è capita, che dalle foto ti faccio vedere i lavori che facevo in macchina, che ho fatto in qualche macchina ai vecchi tempi, quando ero più ragazzino. Io voglio sentire l'impianto, ancora non me l'ho fatto sentire. Un giorno che è un pomeriggio, ci beviamo un caffè e te lo faccio ascoltare, lo faccio scaldare una mezz'oretta prima, adesso ti metto un paio di grani di jet e ti faccio ascoltare un po' di cose. E vedi, diciamo che un impianto che apprezza molto chi ha impianti particolari a caso, vabbè. Poi io ho come cassa, vanno molto bene, anche su... Ho capito, io ho forse per la musica ascolta tu può andare bene, ma se inizi ad ascoltare registrazioni fatte bene, un certo tipo di... io un certo tipo di musica, va a ascoltare, dovrebbe ascoltare, io non posso garantire. Li hanno spinto alla vanno media, questi cavoli, non mi è mai capitato, escluso ora forse di macchina, però non mi è mai capitato di ascoltare una macchina ben suonata con quegli altoparlanti. E poi una cosa che tu avrai sicuramente, come trovi tutte le macchine, è quello che ti voglio far ascoltare. Prima di tutto, i fronti ci sono voliti, che non avrai sicuramente, come non ce l'ha lontano il 90% delle macchine. Pronti sono voliti. Quando tu ti metti a ascoltare un brano, cioè faccio un esempio, dove sicuramente tu senti uscire, avrò un doppio modo, sentirai uscire la voce dalla parte, la tua guida, e dall'altro ogni tanto sentirai che si muove qualcosa, o mi sbaglio? Tu guida, il Twitter ce ne ho davanti, lo stesso nelle montagne. Qui c'ho due cassette, due davanti e il subwoofer. No, non hai capito, a me dalla quantità di altoparlanti non è importante. Cioè, quando tu ti siedi in una macchina ben suonante, a parte l'equilibrio e tutto quanto, la prima cosa che devi ascoltare i cosiddetti fronti sonori. Quando devi riuscire a riprodurre, è la cosa più difficile, poi quella. Quando tu vai a ascoltare un palco, no, un brano di jazz o una cantante, se tu vai a ascoltare classica, quel fatto che vuoi, tu vai lì, ascolti, ti siedi, apri gli occhi, chiudi gli occhi, li riapri e tu vedi la cantante che era suonando, la cantante lì c'è, la chitarra è portata a 2 metri, la chitarra avanti per arrivare a 2 metri di distanza, la cantante lì, la batteria magari più in alto a 3 metri, il piano lì, e senti proprio i piani sonori, senti proprio gli strumenti da dove stanno arrivando, dove sono in queste cose. In una macchina normale, la maggior parte anche in gara, quello che stai, tu cosa fai? Sentirai tutto schiacciato sulla tua destra sicuramente, o sulla tua destra, senti. Le sento senza via parte. Ma non devi sentire, se tu ti siedi qua, non senti altro parte, sì, se ti siedi in una macchina percolante, è come un domestico, se tu ti siedi in un domestico, tu sentirai la cantante al centro del cruscotto, no? La sentirai, ma più profonda la senti, quindi vicino al vetro, e ancora più profonda, alcune poche ho sentito io, e la voce sentirai la cantante che la devi vedere con gli occhi all'altezza degli occhi, in piedi lì su un cruscotto. Poi, e un po' di gente sentirai al centro, tra il centro e l'estremo destro, centro, estremo destro, quindi lì al centro, tra centro e estremo destro, magari sentirai la batteria, tra il centro destra e il centro sinistro al centro sentirai, penso, il piano. Magari dietro la cantante sentirai la batteria spostata sulla sinistra, proprio il palco devi riprodurre, quella è la cosa molto difficile e più importante. Ecco, magari. Vabbè, qui sono impianti sofisticatissimi, non solo io non ci ho mai fatto caso, perché la verità, a me piace la musica pulita, sentire la musica pulita, se la vuoi sentire forte anche sentirà e tocchi bene. E non mi piacciono le matracche, ecco cosa non mi piace. Sì, ho capito. No, buongiorno, se capita te lo faccio ascoltare, così capisci di cosa ti voglio dire. Ecco, c'è, ma non sai quella roba quanto scalda? C'è la mamma, non ce la puoi appoggiare? C'è la ventolina sotto. No, non c'è bisogno di ventolina. Poi l'avevo fatto così, l'ho messo... Non vuol dire che si fa poggiare la mano. Sono pronto. bruciando. Una volta una persona stava parlando con un lineare con quell'antenna lì. Aspetta che mi fermo un attimino al quadrato, controllo l'antenna e c'è che era incandescente, è rossa, era proprio da buco. No, no, no. Questa voce è 600 watt. E io credo che non devi fare, per quello che sono a noi, secondo me l'ideale, il lineare ideale, io l'ho avuto, è il 747, quello è l'ideale. Io ce l'ho. E infatti tu quello lì stai usando? No, io ne ho due. Quello l'ideale, secondo me non ce l'è come quel lineare, infatti ce l'ho è una forma. Poi sicuramente questo praticamente è il fratello maggiore, non è che c'è di quello, questo è il fratello maggiore. Lo so, io lo stavo cercando, era già fuori produzione quando non c'è fatto io. Non sono riuscito a trovarlo. Questo io gli ho scritto, ma ho 101 che stava facendo io su una spedizione, vi ricordo. Ho 100, ma volevo fare a quello così. Ho 110 euro mi sembra, con la spedizione, 100 euro me l'aveva fatto. Io gli ho scritto, ne volevo 150, gli ho scritto, ma per 100 euro lo daresti, siccome non è più facile vendere questa roba, ormai il mercato non è più come una volta. E me l'ha mandato. È stato un bel, io stavo aspettando che calasse il prezzo, per prezzo. Lo so, ma infatti dovevo iscrivere che era fatto apposta. Pensavo manco che te lo desse a quel prezzo lì. E vabbè, 100 euro si può comprare, cioè, costerà 200. Costa di più, però 100 euro non lo so. Se li valgono tutto, perché non è, io li ho visti i prezzi, io lo facendo sempre 50, lo stesso, il prezzo, però il problema è che questo è nuovo, cioè è ancora in scatola, sai che c'è la scatola, è ancora in scatola, capito, nuovo, poi lo senti, diciamo che è nuovo, loro meglio tenere 20 euro in più, però avere una cosa nuova. Allora, su Tecnocomunicazioni c'è quello della ZG che ha 300 watt in AM600 in banda, in F, no, in banda, sì, in banda, e costa 140 euro in offerta. Bisognerebbe provarlo, però bisogna vedere se va come questo. La ZG adesso c'è finale a MOSFET come quello lì. Bene, sicuramente. Io lo so perché, anche io l'ho visto, ma io lo so perché ho puntato su quello. Perché io ce l'avevo. E allora l'altro ho visto come uscito, che non saturava, era bellissimo. E allora l'ho preso per quello, perché praticamente è lo stesso finale, ma il fratello maggiore. Finale più grandi, ma a MOSFET lo stesso. Tutto, ma tu lo senti che sta facendo, adesso al massimo della potenza da più di mezz'ora fa, lui è lì. Vabbè, ma quando sei partito di 7-9? Tu considera che io ero, adesso sto in mezzo a stato rifrigerando al vuoto, tu considera che io ero a, quando ho copiato era ancora fermo sotto i parcheggi, stavo uscendo con i parcheggi, quindi non conosci, c'è la mensa là più o meno. Io non la conosco, io passo lì dove ci sono i parcheggi e vado dietro. Abbiamo dei parcheggi 3-4, Io sto parlando verso le tettoie, là. Dove sono le tettoie, sì, ma aspetta, sto parlando dei gruppi, sì, dai, da poco si è andato, sì. Sì, sono andato quando c'erano già gli scavi. Ma noi stiamo parlando dello stesso posto, dai, non ci sono i pannelli fotovoltaici, ci hanno fatto il tetto e ci hanno fatto il tetto per non avere pannelli. Ho capito, no, lì, da poco no, sono andato un mese fa, perché pure un figlio è nato mio collega. Ho capito, io vado comunque lì a, da quel parcheggio, cioè praticamente scendo da lì il segnale era quello, voglio dire, non lavoro di più in macchina. Vabbè, sì, se c'è questo che l'ho fatto, stanno lo stesso. Come? Stanno lo stesso di quello che avevi modificato di apparato. Sì, l'ho tolto da dentro e l'ho riportato tutto normale, gli ho messo questo più grosso fuori, però andava più che bene, guarda, era una coppa, poi ho deciso di fare questo passo e via. Paga, paga. La macchina è molto più grande di quello lì. E il triplo non è il quadro, no. Davvero? Insomma, non è grandissimo, però già te lo faccio vedere. No, perché quello ci sta bene a fianco alla macchina. Il piccolino? No. Questo è il piccolino, lui è lì, ma secondo me altri uviti li stanno vendendo a tocco freddo, intorno ai 45 euro quelle cose si trovano. E sì, è così. Ma costavano molto meno, 30, 35, aumentati. La GPC io lo pago 35 euro. Il 747? Io. Quando li ho presi io sì, poi li hanno aumentati, 30, 45. E ma io sono ancora va bene il prezzo, non lavori più, cioè ti cambia tutto proprio. Sarà arrivato anche a 50 magari, che quando l'Alan 48 costava 188 euro, lui lo pagava già 220 euro. Ma comunque diciamo che già va bene come prezzo. Sì, sì, ottimo. Non gli puoi dire niente. Io glielo ho detto in faccia. Gli ho detto, se tu continui a fare questi prezzi e non vi adeguate, me ne benissimo i nomi, c'è 220 euro, ma come si fa poi a vedere un apparecchio che costa 148 euro su internet, 220 euro qua? Ma internet non vi danno la garanzia, andate a prendere su internet e poi se vi siete pronto voglio vedere cosa fate. Ma che io, la roba mi si è rotta, gliel'ho rispedita e me l'hanno messa a posto, non è che... Loro andate su internet a comprare, cazzo si è incazzato un bel, i capelli dritti si sono fatti. Non so, come tutti, che poi sono troncate, perché la garanzia non la dà lui, capito? La garanzia la dà la casa produttrice, quindi se lui te lo vede, poi se ti dà problemi devi rivolgerti all'assistenza. Sì, ma infatti, poi ogni volta che c'è un difetto uno l'ha comprato, una volta l'ha accendendo e non accendeva, gli ha detto guardi che questo apparecchio non accende. Allora l'ha smasciato tutto perché gli apparecchi accendono tutti, non so che cosa, non c'hanno nulla gli apparecchi. Certe voi che non li sapete usare, li bruciate e poi venite qua, non so, ha fatto un bel studio. Mi è sottaccato benissimo come sto andando. Può dire quello che vuole, comunque io ormai compro tutto da internet, punto. Ho detto idem. Perché alla fine, cioè, ma ti pare che devi masturbare la testa, tanto sono che ti fanno lo scontrino, la garanzia è a livello europeo, quindi per due anni problemi non ce ne sono. Poi mi dicono, c'è Massimiliano, vediamo l'assistenza Massimiliano. E quindi mai non c'è un problema, basta che c'è lo scontrino e lui te lo mette a posto. Infatti, ma qui ha detto che addirittura su questi BSX, su altri più ci sono stati più problemi, ma sui BSX ha detto che ne hanno portato uno su tantissimi che ne hanno venuto. Uno solo che aveva un filo staccato e c'era una fesseria, che era stata ancora fatta male. E poi ci sono stato BSX, l'hanno tanto detto, tanto fatto, che io l'ho avuto uno, me l'ho modificato, andava che era una bomba, vabbè. Me l'hai detto lo so, quindi sono tutte stronzate le volte, cioè. Perché non uscivano bene le modifiche, qua, là, ma eppure andava bene, l'ho veduto a barra piccola, eccolo qui a barra piccola addirittura. Ti posso dire anche quello là. Quello che usa barra piccola è quello mio. Ma non so perché non si portavano a fare le modifiche. Perché quando uno era esperto in quell'altro modello, lui mette a studiare tutto, a fare tutto, che lì ci vogliono micro saldature e ci vuole il saldatore ad aria, forse era un po' più complicato. Infatti, se uno aggiorna, riesce a fare tutto. Roberto, beh, quello di Cagliari me l'ha fatto e andava benissimo. Infatti, lasciamo perdere. Anche se lui dice che non dà garanzia perché su quegli apparati non li conosce bene, quindi non dà garanzia, non garantiva nulla. E io ho rischiato lo stesso, l'ho voluto fare e me l'ha fatta bene. Infatti, ma chi se ne frega. L'ho sentito lo stesso in rete di quelli modificati che vanno benissimo. Come il carrozziere che mi ha detto che ha usato la pernice ad acqua, dice sull'altra da 5 anni, su questa non lo so che tenuta abbia come vernice. Scusa, io la lavoro gliel'ho pagato, la garanzia per arrivare, la Puglia alla fine ha preso e mi ha dato anche la garanzia di 5 anni su quella. Però lui dice, io massimo posso darmi 2 anni, no, no, lei mi dà 5 anni come dava sull'altra. Ma è ovvio, cioè, che poi c'è tutte puttanate, erano a lavorare, voglio dire, allora lavori vado dall'altro. Ma poi no, capisco che ragionamenti di cazzo fa. Gli avevi di là e loro non ti hanno garanzia se l'avevo eseguito, ma stanno scherzando, infatti già non mi vedi più, dice. Ha fatto un bel lavoro, però mi ha convinto come ha parlato. Quella è gente pericolosa, capito? Poi per come sono io, pignolo, io poi vado sempre dalla solita persona che sta a guardare le gente in più e me, non me ne frega niente, non chiedo sconto, però voglio garanzia. Io sono il mio carrozziere, quando non va nel lavoro non mi va bene, gli lascio la mano.